C'è una poesia di Costantino Cavafis, il grande poeta greco di inizi del secolo che sicuramente conoscete tutti, e se per caso qualcuno non lo conosce direttamente si procuri la sua opera. Se non sa il greco moderno può ricorrere all'elegantissima traduzione di Filippo Maria Pontani, deve essere pubblicata da Mondadori, credo. C'è una poesia di Costantino Cavafis che in questi giorni continua a tornarmi alla mente. È una poesia del 1904, Perimenon d'astus barbarus, aspettando i barbari, in cui si descrive come appunto in qualche imprecisata capitale del mondo classico si aspettino i barbari. I senatori non fanno più le leggi perché le leggi d'ora in poi le faranno i barbari, gli oratori non tengono più discorsi perché i barbari sdegnano la retorica e le arringhe, l'imperatore continua a stare lì seduto, solenne, incoronato sul trono presso la porta maggiore, e accanto a lui consoli e pretori vestono la toga purpurea, esibiscono bracciavi d'ametisti, anelli di smeraldo e mazze preziosi con ceselli d'oro e d'argento, perché questa roba notoriamente fa impressione ai barbari, il popolo affolla le strade, insomma, aspettano tutti. Ma improvvisamente in città si diffonde uno strano smarrimento, i volti si fanno seri, le strade e le piazze si svuotano, tutti tornano a casa con l'aria perplessa perché si è fatta notte e i barbari non sono venuti. Anzi, c'è della gente che è arrivata dal confine e dice che di barbari non ce ne sono più. È un bel guaio. E adesso, si chiede il poeta, senza barbari, cosa sarà di noi? Ianzo più afti san mia capia visis. Era quella gente, era una soluzione. È una bella poesia. Così un po' sprezzante, un po' enigmatica. Naturalmente gli esegeti hanno dibattuto a lungo per stabilire se la città fosse Roma, Costantinopoli o magari Alessandria d'Egitto, dove il poeta, che era funzionario governativo e membro autorevole della locale comunità greca, viveva tranquillo sotto la protezione della corona britannica, ma dove qualche problemino di barbari ai confini poteva anche esserci, come in tutte le città coloniali. Ma minuzie storiche a parte, il senso di quei versi è abbastanza chiaro, perché chiunque capisce che ad aspettare i barbari alla nostra civiltà, esausta per la consapevolezza della propria incapacità di risolvere i problemi che si ostina a creare, è anelante a un'impossibile iniezione di energie nuove. Quello di barbaro è sempre stato un concetto abbastanza ambivalente. Sia quello che sia, io non credo che mai nessuna civiltà in crisi abbia aspettato i barbari con l'ansia con cui in questi giorni le autorità italiane aspettavano gli albanesi. Ansia, naturalmente, nel senso di attesa spasmodica di un evento che si desidera, non in quello della tremebonda aspettazione di qualcosa che si teme. In effetti, sono sicuro che nessuno di voi è caduto nella trappola retorica tesa dalla stampa, dalla televisione, dal governo, dai sindaci, dai politici vari, tutti impegnati a presentare l'affluenza degli albanesi sulle nostre coste sudorientali come una grave minaccia potenziale alla sicurezza e al benessere del paese. E nessuno può essere tanto imbecille da credere davvero che l'arrivo di 10, 11, 12 mila profughi possa, non dico portare al collasso, ma creare problemi davvero seri a quella che bene o male resta la quinta, sesta o al peggio la settima potenza industriale del mondo. E come nessuno può prendere sul serio le lamentazioni sulle crisi del turismo, che notoriamente in febbraio, anche in un febbraio climaticamente mite come quello che stiamo vivendo, non registra proprio dei picchi d'affluenza, neanche in Puglia. O può farsi impressionare dalle prospettive di turbativa all'ordine pubblico rappresentata dalla presenza tra i profughi di un certo numero di condannati per reati comuni e potenziali malviventi. Oddio, è abbastanza ovvio che non tutti gli albanesi stabilizi o desiderosi di stabilirsi in Italia sono dei santarellini, anche perché notoriamente la malavita non usa reclutare il personale tra le file della borghesia agiata, ha una certa predilezione storica per i poveri e gli emarginati. Ma è altrettanto ovvio che un paese come il nostro, che è un paese che non per vantarsi ha esportato in tutto il mondo la sua criminalità organizzata, sull'argomento farebbe meglio tacere, insomma. La vista di quelle bande di disperati in arrivo su quei gusci di noce rugginosi, costretti a sottoporsi alla duplice ignominia di una rapida perquisizione sul posto e di un'altrettanto rapida intervista televisiva da parte di uno delle migliaia di giornalisti presenti, non dava proprio l'impressione della propinquarsi di un'orda di invasori. E allora perché li hanno presentati per tali? Li hanno presentati per tali perché di invasori, di barbari appunto, c'è sempre bisogno. perché l'Italia aspirerà anche ad essere un paese normale, come dice Bontasuolo onorevole D'Alema, ma per ora, per tradizione assai antica, è un paese che vive di emergenze, cioè di anormalità, dove l'economia ordinariamente si regge su una manovra straordinaria via l'altra, dove si è usi proclamare lo stato di calamità naturale ogni volta che piove in autunno o fa caldo in estate, dove per restaurare un edificio pubblico si aspetta che stia per crollare o anche che sia già crollato, dove la lira è sempre, sempre nella bufera, il governo è sempre sull'orlo della crisi e dove finalmente, finalmente, grazie alla spaventosa minaccia rappresentata dall'invasione albanese, siamo riusciti a proclamare per la prima volta nella storia lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale, Sud Tirolo e Val d'Aosta compresi. Stato d'emergenza, naturalmente, che in sé non fa spuntare dal nulla quelle strutture d'accoglienza, quelle attrezzature logistiche, quelle capacità di organizzazione di cui ci siamo dimostrati scandalosamente carenti di fronte a una modesta crisi locali, ma che permette, guarda un po', di aumentare i poteri dei prefetti e delle autorità in genere. Perché di fronte a una crisi, a qualsiasi crisi, il potere prende sempre lo stesso provvedimento, rafforza se stesso. Poi si vedrà. Ai profughi per ora ci pensano i volontari. E mentre i volontari ci pensano, le autorità possono dedicarsi a quello sport preferito che è il rilancio di dichiarazioni, il rimpallo delle responsabilità, i politici possono giocare a chi fa il cattivo, come il nostro sindaco uscente, speriamo che esca davvero, e chi fa il buono, a seconda da come intendono presentarsi al loro elettorato, i generali e gli ammirali, sagacemente memori del fatto che l'Albania è praticamente l'unico paese che le forze armate italiane siano riuscite a sconfiggere dal 1918 in poi, possono cogliere la felice e rara occasione di giocare alla guerra. Tutto questo grazie agli albanesi. E capirete adesso l'ansia delle nostre autorità, la preoccupazione con cui in questi giorni seguono le condizioni meteorologiche, lo stato dei venti e commentano preoccupate la diminuzione del numero degli sbarchi. E se quei benedetti schipetari alla fine decidessero di non venire, sarebbe una catastrofe, altro che. Forse varrebbe la pena di mandare nella rada di Valona un paio di incrociatori e l'intero battaglione San Marco, tanto per esortarli a darsi una mossa, a partire in fretta, d'accordo con l'ONU, con la NATO e con l'Unione Europea, naturalmente, perché su certe cose non si può transigere.